Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Di Rosita Celentano e Angelo Vaira. Bevi, bevi, bevi. Buongiorno. Adesso fa un gargarismo, Vaira. Buongiorno. Sorpreso, no, da questa cosa. Con le patatine. Patatine che non bisognerebbe mangiare nemmeno le bevande infatti, zuccherine, come dice il nostro mito professor Berrino. Allora, vi ricordo subito la mail, perché dovete scriverci. Vedo ci stanno arrivando un sacco di mail interessanti. Qualcuna poi ve la leggeremo. Chiedimi se sono felice. @24.it. Dobbiamo ricordarlo. Allora, continuiamo con il nostro articolino di Focus. Ricordiamo, stiamo prendendo un po' di puntate, ora siamo arrivati al quinto punto. Probabilmente, ecco, praticamente se tu vuoi avere da un confronto qualcosa di buono, non devi forzare ed è meglio che utilizzi la gentilezza, diciamo così. Con le buone si ottiene tutto, e con le buone si ottiene tutto. Io e te appena parte sta sigla iniziamo a fare con la testa così come fanno i Muppets. Sì. Grande JX con questa sigla che ci ha insegnato un po' di cose, anche se poi lui in realtà velatamente dice non sempre si risolve tutto con le buone, possiamo anche dargli ragione. No, invece noi pensiamo che con le buone si risolva veramente tutto. L'articolo di Fox, ve lo ricordo sempre, scommetti che ti convinco, e nelle puntate precedenti c'era punto 1 l'ascolto, sincronizzatevi punto 2, punto 3 identificate le radici, punto 4 fate argomentare, punto 5 di oggi discutete di persona. Sì, e ricordiamo che per ognuno di questi punti abbiamo tracciato un parallelo, esatto, nel mondo della comunicazione tra persone, tra il mondo della comunicazione delle persone e quello di come con quello con gli animali, certo, dei, perché con non, è i che, cani. Non è che noi parliamo a vanvera così di qualunque cosa, cioè abbiamo sempre un nesso. Allora, discutete di persona e non su internet. Uno dei luoghi meno civili per dialogare sono i social network, perché difatti è noto che la rete purtroppo pullula di haters, cioè gli odiatori, utenti che disprezzano e criticano distruttivamente gli altri. Lo fanno spesso per sentirsi grandi, gradassi, ovviamente, quindi inutilmente. Inoltre, nelle discussioni online manca il linguaggio corporeo necessario per sincronizzarsi con l'altro e per correggere il tiro quando il discorso prende la piega sbagliata. Noi, difatti, ho scoperto, stando con te, Angelo, che noi verbalmente comunichiamo solo per il 7%, il 90%. 3% è fatto da comunicazione non verbale e paraverbale. E paraverbale, bravissima, ti ricordi tutto. E il paraverbale è la discussione, è il tono. Il tono della voce, sì, che è più importante. Però che cosa, allora, quindi il discorso è: evitate di scrivere bigliettini, evitate di mandare mail, evitate di discutere su Facebook. Esatto. Se davvero ci tenete ad un confronto che così che si possa chiamare l'altro delle vostre motivazioni. Ma non che sempre, sì, tu non è che devi per forza convincere, sì, l'altro, certo. Magari ti convinci tu che quell'altro ha ragione. Sì. Perché il confronto sia proficuo, bisogna meglio parlarsi di persona. Ma comunque vorrei solo, a parte io che ho sempre ragione, a parte tu che hai sempre ragione, esatto, assolutamente, no, ricordiamolo, in diretta su Radio 24 Rosetta Centano ha sempre ragione. No, ricordatelo tu. Tracciamo questo parallelo con, sì, i cani, che dici? Vai. Allora, con i cani, questo punto qua ci fa capire che scrivere crea distanza, no? Certo. Non essere di persona crea distanza, ma con i cani si può creare distanza ugualmente. Si può creare distanza principalmente, per esempio, quando noi ci ostiniamo con il cane a parlare, quando noi gli diciamo delle cose. Ora il cane capisce come ci sentiamo, può capire il nostro umore, le nostre intenzioni. Francamente, la nostra lingua no. Ma è quello che i cani possono capire, alcune parole. Per esempio, se tu gli dici facciamo la pappa, no? E dici sempre, certo, questo prima di dargli da mangiare, il cane lo capisce. Chi c'è, il famoso chi c'è, il suono del citofono. Il cane capisce queste cose qui, no? Però il punto che cos'è? Che noi siamo abituati a fare così tanta attenzione a quello che diciamo, ma il cane fa molta più attenzione a quello che facciamo. Certo. Infatti comprende le nostre emozioni, intenzioni, dal nostro tono di voce e dal modo in cui ci muoviamo. Quindi dobbiamo fare molta attenzione a come usiamo corpo e voce. Come con le persone poi alla fine, perché anche noi credo anche che comunichiamo noi, molto noi per le cose non e infatti i cani sono una buonissima palestra comunicativa, anche per le persone che devono poi comunicare con altri esseri umani. Benissimo. Allora, abbiamo al telefono, io vorrei spendere qualche parola in più sui cani meticci. Allora, ho chiesto... Fantastici cani meticci, che si dice che siano anche più intelligenti, no? Esattamente. Allora, ho chiesto ad un veterinario comportamentalista, che è presidente di ASETRA, è un'associazione di studi etologici, e visto che lei è una grande esperta di ontogenesi delle razze, di tendenze comportamentali delle razze, io le ho detto, Barbara Gallicchio, che adesso è al telefono, ma dei meticci, che ci dici? Ciao Barbara! Ciao. Ciao. Ciao. Che ci dici dei meticci? Allora, prima di tutto dobbiamo sfatare che le razze pure siano qualcosa di infatti così sceso dal cielo, puro stante semplice, la stragrande maggioranza delle razze pure è stata meticcia. Ah, vedi. Certo, vedi, questa è una cosa che no, spieghiamolo bene, perché magari chi ascolta dice cosa? Che vuol dire? Perché originano da una miscela di cani che sono evoluti in quella zona, per esempio nel nostro vecchio continente, diciamo nella regione nord della Francia, della Germania, dell'Olanda, della Danimarca, sono originati dei cani che assomigliano a lupetti di vario colore, con vari tipi di pelo, da cui nel tempo, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, sono state poi isolate e allevate in purezza le popolazioni che daranno origine al pastore tedesco, mm-hmm. al pastore belga, al pastore olandese, al pastore di Piccardia. Quindi derivano tutti dai meticci, praticamente tutte le razze derivano da loro. Sì. Sono le popolazioni, diciamo, originali, sono in realtà popolazioni ampiamente meticciate, da cui poi si selezionano. E allora è un momento che esiste l'allevamento chiuso, dove non c'è più ingresso di altri individui nuovi, allora diciamo che la razza diventa pura. Però è una cosa un po' fittizia quella che noi diciamo, se andiamo abbastanza indietro nel tempo c'è un momento in cui sono stati tutti meticci. Perché poi molte razze sono meticci, originano proprio dal meticciamento, proprio per scelta. Il dogo argentino ha una ricetta con 11 razze che sono state inserite, certo, per fare il dogo argentino. Quindi è uno super meticcio. Sono super meticci, sì, esatto. Originano da questo. E quindi nella pressione selettiva che ha creato delle razze abbiamo creato dei pregi, delle tendenze comportamentali ricercate come la punta nel pointer, i cani da seguita, i cani da guardia, via dicendo, però a volte il fatto che ci sia consanguinità ha creato anche problemi. Sì, noi abbiamo creato una grande prevedibilità, sia fisica che anche in parte comportamentale. Quindi noi, se prendiamo un pastore belga, abbiamo una chiara idea, quando prendiamo il cucciolino, di che cosa diventerà questo cane. Uh-huh. Dal punto di vista fisico di certo, dal punto di vista comportamentale, almeno per tendenza, ci aspettiamo un certo tipo di profilo. Come giustamente hai detto, se prendiamo un pointer abbiamo un altro tipo di profilo rispetto a un cane che è certo. guardiano, reattivo. Il pointer è reattivo sì, ma è reattivo sulla predazione, no? Quindi abbiamo questa grande prevedibilità che rende più semplice, anche volendo un po', l'adozione, no? Io ho le mie esigenze, so quali sono le mie esigenze, certo. so che tipo di esigenze ha questo cane, è più facile. Quando ci va bene, quando il cane non è scelto per il colore degli occhi o del mantello. Ecco, certo, naturalmente bisognerebbe essere un po' più saggi in queste scelte, lì basta guardare l'effetto che hanno i film, i media, le pubblicità, per rendersi conto quanto poca saggezza ci sia. E soprattutto capire anche in base alla famiglia, alle persone che sono in famiglia, la vita che si fa, qual è il cane più adatto. Appunto. Perché prendere un San Bernardo, se uno vive in città, in un monolocale, forse. Barbara, io tra poco, dopo le informazioni sul traffico, dovrò chiederti se è vero che i meticci godono di maggiore salute rispetto ai cani di razza. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta... Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Eccoci. Ed eccoci, siamo al telefono con Barbara Gallicchio, etologo, medico veterinario comportamentalista, che ci stava spiegando la nostra guru. Poi, perché io, povera Barbara, quante volte ti chiama perché ti chiamo per sapere, perché Euphoria purtroppo gli è cresciuta un'unghia un pochino di no, non è vero. Allora, la domanda che avevo fatto poco fa a Barbara era: ma è vero che ci sono delle differenze di salute tra cani di razza e meticci, perché stiamo valutando le differenze tra le due cose, Barbara? Allora, dicevamo che siccome i meticci a loro volta vengono da incroci di razze, possono portarsi dietro, per esempio, delle malattie che sono comuni a molte razze, per esempio la displasia dell'anca. Anche nei meticci abbiamo la displasia dell'anca o la mielopatia degenerativa del pastore tedesco. Ci sono tantissimi incroci che hanno sangue di pastore tedesco e quindi hanno anche questo problema, che non è poi esclusivo del pastore tedesco, come la displasia, oppure l'epilessia, no? Per esempio, sì. Anche questa è una malattia molto diffusa, per cui non è che possiamo dire ah ok, ho preso un meticcio, sto tranquilla, sì. Non avrà mai niente. No, non è così, la salute comunque è anche un po' di fortuna, no? Nella vita. Però certo che insomma ci sono delle razze che hanno popolazioni molto piccole, con una consanguinità molto alta e magari hanno anche una morfologia un po' estrema, facce molto corte, zampe molto corte, tronchi molto lunghi, eccetera, che effettivamente sono un po' più a rischio per certi tipi di problemi. Quindi potrebbe anche essere una cosa che si può accettare di dire: se prendi un meticcio è più facile che tu non abbia certi tipi di problemi, mettiamola così, no? Poi ci vuole la fortuna e ci vuole anche come tu lo alleni. Però, per esempio, ci sono delle caratteristiche che vengono date un po' per scontate nei meticci. Per esempio, è facile avere un bel temperamento se tu usi i riproduttori giusti. Nell'allevamento dei cani d'assistenza, cani guida, cani per disabili, cani guida per ciechi, cani per disabili, per esempio, adesso in tutto il mondo c'è un crescente uso di quelli che si chiamano labradoodle. Labradoodle, favoloso. Il labradoodle, che è un incrocio tra il labrador e il barbone gigante, che nella lingua anglosassone si chiama poodle. Poodle, sì. Ne hai mai incontrato uno? Io sì, molti, diversi. Come sono? Che mi affascinano tanto, ne ho mai visto. Sono molto più barboni che labrador, perché il barbone è molto dominante negli incroci, per cui hanno tutto il pelo riccio o al limite ondulato, a seconda poi del tipo di incrocio, però insomma hanno le caratteristiche buone dell'uno e dell'altro, no? E non perdono pelo. Come il pelo del barbone non si perde. Noi ne sappiamo qualcosa. Le persone allergiche al pelo del labrador, che invece è un pelo corto che va dappertutto, si infila nel naso, eccetera, e non ce la fanno. Perché poi nasce proprio così questo incrocio, nasce perché in Australia c'era, in questo grandissimo allevamento di cani per assistenza e cani guida, una certa frequenza di problemi con o non vedenti stessi o i loro parenti o familiari con problemi di allergie. Allora hanno avuto l'idea di inserire il pelo del barbone, che non è, è notoriamente ipoallergenico, nel labrador, e così avere un po' il buono dell'uno e dell'altro. In effetti è così. Solo che sono usciti adesso questi cani, che hanno grandi qualità del temperamento, sono usciti dal mondo del cane d'assistenza. E adesso, proprio l'altro ieri, il Telegraph, in Inghilterra, il giorno quotidiano, il Telegraph, ha detto che la razza favorita è il doodle, è un doodle. I doodle sono nel loro complesso gli incroci col barbone. Ok. Perché non è solo il labradoodle. Senti, devo farti una domanda, no? Ma allora, siccome qui spesso parliamo dei canili, no? Perché ci sono delle storie drammatiche al loro carico, però ci sono anche, c'è tanta felicità anche nei canili. E l'idea che uno, quando prende adotta un cane, se lo paga, vuol dire che vale di più rispetto al meticcio, per me stona un po', no? E quindi volevo chiederti questo. Io vorrei evitare di far passare il messaggio che i meticci sono cani di scelta di serie B, di serie B, no? Di seconda scelta. Quando poi si dice che invece è vero, o è una leggenda metropolitana che sono quelli, sembra che siano fra i cani più intelligenti i meticci? Qua si apre una bella parentesi, una bella domanda questa. Cos'è l'intelligenza? Allora, nei meticci abbiamo ogni possibile figura e fattezza dello spettro in cui si declinano i cani. Quindi abbiamo cani piccolissimi e cani grandissimi, cani di mezza taglia, cani bassi sugli arti, cani alti sugli arti, e nello stesso modo avremo cani molto intelligenti e cani che non lo sono. Perché questa è la natura degli esseri umani e degli esseri viventi in generale, no? Se non è che possiamo avere una previsione di grande intelligenza. Quelli che sono molto intelligenti di solito sono i randagi. La cosa nasce da lì, siccome sono randagi, e se la sono cavata da sola, allora per quello hai ragione. Questo è un dato certo. Quando è nato in Ungheria il progetto studio sull'etologia del cane, sull'etologia cognitiva, uno dei primi test che hanno fatto è stato prendere dei cani che erano stati randagi e vaganti e che si trovavano al canile, e paragonarli con i cani di razza che erano in casa, in un semplice test di elaborazione cognitiva. Questi erano avantissimo. E il primo giro ha addirittura surclassato ogni attesa, nel senso che questi cani vaganti, che venivano dalla vita vagante, erano incomparabilmente più bravi. Certo. Poi si è scoperto che il secondo gruppo, che erano cani di casa, che sembravano un tantino in ritardo per risolvere i problemi, era sufficiente incentivarli molto per ottenere gli stessi risultati. Perché? Perché i randagi sono abituati a far conto su se stessi e quindi trovano subito le risorse, mentre i cani di casa sono abituati a sentirsi dire quello che devono fare. Ecco. Grazie Barbara. Allora io qui concluderei con una cosa: tu non hai la certezza che il tuo cane sia intelligente soltanto perché è un cane di razza, perché devi farci delle cose. Come proprietario responsabile sai che sei responsabile delle esperienze che il cane farà lungo la vita, ed è questo che lo rende più intelligente o meno. Esatto. Grazie, grazie mille. Grazie Barbara, un grazie abbraccio. Barbara Gallicchio. Ciao, ciao. Vedi? È esattamente come le persone. Adesso io ti volevo dire questa cosa allucinante: perché i cani e i gatti neri sono difficilmente adottati dai canili e dai gattili, che la trovo una cosa allucinante. No, prima di tutto la notizia, no? Che di cui tra poco voglio chiedere ad una si mia chiama, amica che lavora allora, in cani. Ha un nome preciso, è una sindrome, si chiama Black Dog Syndrome. La sindrome del cane nero, che colpisce in egual misura cani e gatti. No, aspetta, che non è una sindrome che hanno i cani. No, che è una sindrome che hanno le persone. Di che stiamo parlando? Che i cani e i gatti di colore nero difficilmente vengono adottati. E qui su questo articolo, che fra l'altro prendiamo da Green Style, che è un sito interessantissimo, anzi un giorno intervisteremo qualcuno di Green Style, perché hanno degli articoli sugli animali veramente interessanti. Allora dice che questa cosa qui purtroppo è legata a due fattori: uno, la superstizione, e due, la stupidità umana. Quindi in pratica tu mi stai dicendo che io vado in canile e se sono una persona comune eviterò di adottare il cane nero o il gatto nero. Sì, esattamente così. Sentiamo. Uno appunto legato alla superstizione, perché si dice che il gatto nero porti sfortuna, sia pericoloso. Quindi però ovviamente alcuni addetti della Human Society dice che molti padroni in divenire hanno lasciato intendere che sia la cosa legata alla stupidità, è perché sembra che abbiano lasciato intendere che i cani e i gatti neri sono difficili da fotografare, non vengono bene nelle fotografie. Ma sì, questo sarebbe il motivo. Ma questo è un motivo. Questo è un secondo motivo legato alla stupidità umana. È un'ipotesi, mi auguro. Non è che uno dice: no, guardi, siccome non viene bene in fotografia, evito di adottare. Allora, Inge Frick, non so come si chiama, direttrice dell'Human Society di Washington, dice: non è uno scherzo, c'è un'evidenza aneddotica, non ci sono stati studi definitivi che provano come il fenomeno fotografico esista, ma è qualcosa di comunemente riconosciuto come vero dai lavoratori di rifugi, perché sembra che tutti quelli vogliono fare foto e metterle sui social, i cani e i gatti neri non vengono bene. Ma io mi auguro che uno non vada guidato da questo, però effettivamente tra la superstizione è questo, però poi l'altro motivo era la superstizione. Però il punto è questo: inconsciamente siamo abituati a rifiutare e prendere le distanze dai cani neri. Allora basta che uno ne prenda consapevolezza. Vorrei sentire però a questo riguardo, vorrei una conferma sull'Italia. Certo. Allora abbiamo al telefono Eleonora Bizzozzero, che è un educatore cinofilo e che da diversi anni, io posso dire forse almeno metà della sua vita, si dedica ai canili, ai cani di canili, ai gatti, è una grande appassionata di gatto. Ci sei Eleonora? Sì, ci sono, buongiorno. Eccoci qua. Ciao, Eleonora. Te da quanto tempo sei volontaria nei canili e in queste cose qui? Sì, allora io mi dedico come lavoro e come volontariato nei canili da 20 anni, ecco, in vedi, diversi canili del nord, ma collaboro anche con canili del sud. Quindi se poniamo che lei ha 80 anni, perché un'amica la conosco bene, certo. Quindi solo poca tua vita hai dedicato. Senti Eleonora, ma è vero questa cosa che i cani e i gatti neri difficilmente vengono adottati? Purtroppo sì, ti devo dare la conferma, e quando lo racconto ai miei amici, spesso lo racconto, vengo derisa per questa cosa, ma Ele, è la realtà dei fatti. Ele, aspetta un attimo perché purtroppo dobbiamo fare una pausa, tra poco riprendiamo il discorso. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Eccoci qui in trasmissione su Radio 24 con Rosita Celentano e Angelo Baina. Cosa stai facendo? Ma ancora sta roba qua? Cioè, lo vedi? Allora, Eleonora, come ti dicevo poco fa, purtroppo è proprio un hooligan delle radio. La ma non è vero, sto staminando per fare quel foglio. Sto strappando, siamo pieni di appunti e così poi faccio un macello. Allora, stavamo parlando di una cosa importante invece con Eleonora Bizzozzero, perché ci ha confermato quello che tu hai letto sull'articolo di Green Style, ovvero in Italia... i cani, anche in canile, nei canili dove lei ha lavorato e ci lavora da 20 anni, i cani neri sono meno adottati. Credo degli ovunque, altri. Non solo in Italia. Sì, io ti posso dire la mia esperienza qua, come ti dicevo prima, nei canini del nord, ma collaboro anche con canini del sud, e in effetti i canini in Italia sono pieni di cani neri. Io in questi 20 anni direi che ho fatto svariate centinaia di colloqui e adozioni e ti posso confermare questa cosa. Anche nelle cucciolate, su 3 biondi e 3 neri, i 3 biondi sono immediatamente prenotati, ma i 3 neri facciamo un po' più fatica. Ma il motivo via. Si sa? Ma guarda, non lo so, mi sono fatta un'ipotesi, anche su questo i miei amici mi deridono, però diciamo che noi siamo cresciuti con dei cartoni animati in cui i cavalieri buoni sono sempre biondi con gli occhi azzurri e quelli cattivi sono nei capelli neri e la barba nera. Vero, abbiamo l'uomo nero, la strega vestita di nero, il lupo di cappuccetto rosso, infatti, ce lo disegnano nero, e la pimpa che è simpatica è bianca con i puntini rossi. Ma infatti secondo me c'è un richiamo inconscio da questo punto di vista. Allora il discorso è... Il discorso è, se il cane ha il mantello nero, può essere un cane bravissimo. Allora, io perché ne voglio parlare in radio di questo? Perché la prossima volta che qualcuno si troverà in canile, deve essere consapevole di quello. Cioè, se questa persona sceglierà in base al colore del mantello, è possibile che si neghi la possibilità di convivere con un cane bravissimo, che può cambiargli la vita in meglio, negandogliela e magari facendolo rimanere là, perché ci saranno altre persone come lui che purtroppo sceglieranno i cani di colore chiaro. Assolutamente. Questo sì. Che poi il nero sfina. Ma tu immagino che tu in canile abbia a volte parlato con qualcuno che era più propenso verso il cane di colore chiaro e tu gli abbia detto: ma guarda che quell'altro, anche se nero, è bravo. Ti è mai capitato? Sì, la risposta è stata quasi sempre: non lo so, a pelle questo mi ispira più fiducia. Ma ecco, tu pensa che invece io il contrario, cioè io volevo l'alano nero, avevo un barboncino nero, cioè io sono l'esatto contrario. Sei strana, non fai testo. Sono strana, non faccio testo. Ma no, io sono sempre stata attratta, anche tutti i, quando mi portai a casa per la felicità di mia madre da giovane, i cani randagi ne ho portati a casa, sono arrivata a prenderne 12, a raccattarne 12 dalla strada, erano quasi tutti scuri. Cioè, però sì, effettivamente hai fatto la tua buona opera. Allora Eleonora Bizzozzero, grazie di questa testimonianza, grazie, rendiamo più consapevoli, grazie anche a Radio 24, le persone che i cani neri possono essere bravissimi e adottabilissimi. Grazie Eleonora. Grazie Eleonora. Ciao. Allora, adesso qui parliamo anche di motivazioni scientifiche per adottare un cane, perché non hai è... beccato un articolo bello? Ho beccato un articolo bello, perché qui dice che, per esempio, secondo lo studio pubblicitario sulla rivista Society and Animals, adottare un cane fa bene perché produce buon umore, aumenta la frequenza delle risate a chi li ospita, favorisce la socializzazione, particolarmente quando si vanno a fare le passeggiate nel parco oppure per i boschi. Oltretutto un cane protegge la salute dell'uomo favorendone la calma, il relax, abbassa la pressione. Cioè, ci sono mille motivi. Ci sono delle motivazioni, però ci sono anche delle cose che io l'ho letto questo articolo. Cioè, il cane, per esempio, cani bambini, fa bene, ma fa bene soprattutto o a patto che ci siano delle cose che devono essere rispettate. Quindi stiamo parlando di motivazioni scientifiche per le quali è bene adottare i cani, e quindi ne parliamo. Quindi non soltanto chiedimi se sono felice, lo chiediamo al cane, ma ce lo chiediamo a noi stessi, perché nel momento in cui ne adottiamo uno pare la nostra vita diventi una vita più migliore, felice. È vero. E allora qui per esempio dice, visto che noi conviviamo con i cani da più di da circa 18.000 anni, qui voglio dire, lasciatemi passare il termine tecnico, sì, DNA mitocondriale, attraverso questa analisi DNA mitocondriale, è stato fatto uno studio per capire da chi provenisse il cane, quale fosse l'antenato del cane, il risultato essere solo il lupo, e il DNA mitocondriale ha retrodatato il diventare del lupo cane a 100 o 150.000 anni fa addirittura. Sì. Quindi noi possiamo fare una stima così: noi conviviamo su questo pianeta con i cani che sono nostri alleati da almeno 50-60 mila anni. È un tempo enorme, e per cui il cane si è innestato un po' nel nostro DNA. Quindi forse la convivenza più lunga che ha avuto l'uomo con un altro essere. Esattamente, animale. L'animale domestico più antico del mondo. E questo che cosa ha fatto? Sì, è per questo che poi quando tu accarezzi un animale c'è un abbassamento della pressione, liberi endorfine, ossitocina e via dicendo. E sì, poi, insomma, si dice che il cane è sinonimo di affetto, compagnia, buon umore, serenità, esatto. Di protezione, ascolto, attività fisica. Ma cioè non, esempio, ci sono controindicazioni nella relazione, nella vita assieme a un cane? No, no, beh, ce ne possono essere se uno magari ha effettivamente un'allergia particolare, vabbè, per carità, però sappiamo anche che i cani difendono dalle allergie. Allora, quello che voglio dire, per esempio, è che su questo articolo si parla di cani e figli, no? Quindi ho un bambino, ho un adolescente e adotto un cane. Allora, sì, è stato dimostrato da uno studio riportato sulla vita emozionale degli animali di Mark Bekoff, che dice, uno studio fatto su oltre 300 studenti universitari, pare che quelli che sono convissuti con un animale nella loro infanzia e nella loro adolescenza, parlano di cani e di gatti, abbiano un'intelligenza sociale più sviluppata. Sì. E poi leggo dei bambini, no? Che i bambini diventano più amorevoli, più compassionevoli, aumenta appunto la loro, sì, intelligenza, sì, certo, sociale. Certo. Però voglio dire una cosa ai genitori che sono in ascolto. Attenzione, perché spesso i cani sono vittime dei bambini, ma soprattutto se tu vuoi che l'intelligenza emotiva e sociale di tuo figlio migliori grazie alla presenza di un cane, non puoi consentire che tuo figlio faccia tutto quello che vuole, perché spesso, assolutamente, li, perché non è un peluche. Sì, perché spesso li sento, diciamo, ma quello è un cane, certo, deve far fare tutto quello che vuole da mio figlio. Ma già la partenza di prenderglielo come regalo e poi mollarlo lì in balia di un bambino è sbagliata. Eh sì, famoso regalo di Natale, oppure l'adolescente che dice no, ma tanto me ne prenderò cura io per tutta la vita. Dopo due mesi il cane è già diventato il giocattolo vecchio, e quindi bisogna prendersi la responsabilità. Attenzione che l'adozione sia valutata bene, perché quel cane farà parte della, scegliendo, tua famiglia, anche, se è un cucciolo, forse per 15-16 anni. Appunto dico, scegliendo anche il tipo di cane adatto secondo dell'età dei figli, secondo della casa che si ha, secondo della vita che si è, no, fa. Ma stavamo dicendo, sai questa tendenza oggi naturale ad avere, a non dare limiti ai bambini, cioè possono fare tutto quello, sì, che vogliono, possono disturbare, possono fare i capelli, possono, ecco, con il cane è importante comprendere che il cane dà dei limiti ai bambini, li può dare in modo soft, allontanandosi quando non hanno più voglia di giocare perché il bambino sta insistendo troppo, perché il cane ha bisogno di riposo, o addirittura ringhiando, perché se il bambino non lo capisce, non sa leggere i segnali calmanti, certo, il genitore magari non li conosce neanche lui, non ha insegnato al figlio a leggerli, quindi il cane ringhia. In quel caso il ringhio parte dal fatto che il cane è stufo e quindi va protetto dal bambino. Il bambino ha un'occasione di imparare che cosa? Che lì dentro, in quel corpo, c'è una mente pensante, c'è una vita emotiva, ed è lì che il bambino cresce il meglio, con una maggiore intelligenza sociale. Quindi quando noi insegniamo al bambino a rispettare i tempi e i bisogni del cane, ecco che il bambino migliore, diventa più intelligente. Se invece può fare tutto quello che vuole, questo beneficio cade. Chiedimi perché io sono così migliore e intelligente. Perché sei migliore e intelligente? Perché sono cresciuta in mezzo a un sacco di cani. Cani, gatti, papere, cincillà, salvati cincillà. Bravissimo. Poi non dimentichiamoci le 3S di cui abbiamo parlato nella puntata scorsa con Maria Sole: cani e bambini, supervisione, supervisione, supervisione da parte dei genitori. Benissimo, adesso invece abbiamo in linea un signore, Giuliano Frittelli, che è presidente dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Roma. Buongiorno Giuliano. Buongiorno a voi. Buongiorno. Buongiorno. A tutti. Senta, ma noi qualche puntata fa abbiamo letto di un articolo in cui una ragazza cieca è stata cacciata da un ristorante, esatto, è successo a Liverpool. E sì, lei che cosa da dire? No, e soprattutto volevamo capire, io davo per scontato, probabilmente sbagliando, che chi ha bisogno di un cane come i non vedenti, un cane guida come i non vedenti, o come all'estero, non so se in Italia ci sono i cani che stanno vicino a chi soffre di crisi epilettiche, di attacchi epilettici, piuttosto che chi è diabetico, hanno la precedenza, cioè non gli si può negare la possibilità di entrare in un locale pubblico piuttosto che prendere un taxi, perché hanno il cane che ha un ruolo ben preciso. Sì, in Italia c'è una normativa ben precisa che dice proprio questo, sia negli esercizi pubblici, quindi abbiamo da alberghi, ristoranti eccetera, che nei mezzi pubblici. Purtroppo a volte succede che non sono informate le persone, uh-huh, e pensano che sia una cortesia, ma quello, a parte che c'è una norma, poi è come dire a una persona che sta su una sedia a rotella di lasciare la sedia fuori dall'ingresso del locale. Certo. È stato assurdo, però non vedente. Il cane guida sono gli occhi, la possibilità di muoversi. Ma quindi se io avessi il mio cane guida che sono non vedente, mi vado in un taxi piuttosto dentro un ristorante, uno mi dice no, non la posso prendere. Io posso invece obbligarlo a portarmi a un tassista, sì, come la normativa, sia il 74 del 2006, la 60 eccetera, che prevede addirittura Una sanzione da 500 a 2500 euro. Ecco, una sanzione da 500 a 2500 euro. Quindi, allora, chiunque sta ascoltando la trasmissione. Da parte di chi? Di tassisti, ristoratori, chiunque? Chiunque. Chiunque, in esercizi ha un esercizio pubblico o anche sui mezzi. A volte succede anche in modo, diciamo, velato, nel senso che praticamente io telefono, chiedo se c'è il posto al ristorante e magari mi dico di sì. Però se io invece telefono e dico vorrei venire con il cane o un cane guida, e a volte capita che qualcuno abbia da dire no, non c'è possibilità, sì, magari certo. Il taxi che no, lo prenoto, non, magari parte del tassista non è disponibile in quel momento. Poi non è sempre così, la maggior parte delle volte tra le persone disponibilissime, quindi... Ah sì, ma ce ne sono tante, sì, bravissime, sì, certo. Però io voglio dire questo a tutti, allora, entusiasti dei cani proprio, certo. Allora, tassisti, radiotaxi, albergatori, ristoratori, attenzione, perché se qualcuno tra di voi ci sta ascoltando e si crea dei problemi quando si trova davanti un non vedente con il suo cane guida, attenzione, perché c'è una sanzione che va da 500 a 2500 euro, Quindi voglio dire, i cani sono un altro aspetto meraviglioso, no? Per i non vedenti, cioè sono vivi, entrano in un rapporto con il suo padrone che è molto particolare, vero? Sì, sono bellissimi. Guarda, io veramente ce l'ha mia moglie adesso il cane da noi, comunque è un labrador buonissimo, che poi molte volte nasce dalla diffidenza del non conoscerle, perché sì, sono dei cani deliziosi, buonissimi, che anzi veramente sono anche troppo pazienti, perché quando dove andiamo avrei anche facciamo un attimo una pausa, Giuliano, e poi la riprendiamo subito dopo. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa, vi presenta Chiedimi se sono felice, il mondo dalla prospettiva del cane. Questo è un film che io... Allora, questo qui è Luci della città di Charlie Chaplin. Sì. Ed è la scena di quando lui dà l'elemosina, lui che è un clochard, un barbone, dà l'elemosina a una fioraia non vedente. Non vedente. Pensa che da questa scena qui, lui non aveva scritto niente di quel copione, da questa scena qui lui scrive tutto il resto della storia. Tutto il resto del film, perché il punto è che lei pensa che lui sia un uomo ricco. Sì, e la cosa difficile che lui non riusciva a trasmettere cinematograficamente, Charlie Chaplin, era come faccio a far credere a una donna non vedente che gli sta dando l'elemosina a un miliardario invece che a un barbone. E lì ha avuto l'intuizione, dopo una cosa come 87 ciak, 150 ciak, che sente aprire e chiudere la portiera di una macchinona grossa. Togliamoci il cappello e facciamo un inchino al maestro che era grande, Charlie Chaplin. Tutto. Quindi si chiama Luci della città, così i nostri sì, ascoltatori possono andarselo a vedere. Film meraviglioso. Al telefono abbiamo ancora con noi Giuliano Frettelli, che è presidente dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Roma, che ci stava raccontando appunto la sua esperienza con il cane da guida di sua moglie, anche lei non vedente, giusto Giuliano? Esatto, sì. Da un anno e mezzo che è arrivato da noi Thea. Un anno e mezzo, Thea. Adesso quanto tempo ha Thea? Ha fatto 3 anni ieri. 3 anni Amore. Ieri, sì, fantastico. Sì, sì, sì. E quindi, insomma, raccontaci un po', tu eri un po' scettico, so, no? Da questo punto di vista? Sai, scettico proprio no, però era un po' perplesso, sai, due persone non vedenti per la gestione eccetera, invece devo dire che sono stato felicissimo e lei è entusiasta, addirittura gli ha fatto una pagina Facebook della cane guida, guarda, è proprio sì, sì, no, è veramente una cosa molto bella. E devo dire, te, anche se a volte è perplessa, mi accompagna anche a me a volte, che servito di portarla fuori la sera, magari vedo che la testa la gira, dice ma siamo proprio sicuri, ma però lo fa lo stesso. Senti, ma poco fa leggevamo un articolo su quanto i cani ci rendano più felici, no? Allora io mi chiedo, a parte il beneficio pratico che ti migliora, immagino, la vita in un modo sensibile di avere un cane guida, no? Per un non vedente. Ma quali altri benefici ci sono quando entra un cane nella vostra vita? Cosa è successo? Beh, te la cambia perché c'hai, diciamo, lei che è sempre presente, sempre Vi accudisce? Sì, esatto, si allieta la vita, perché torni a casa, c'è la che ti fa le feste, poi devi uscire, insomma. Poi va bene, adesso sarà un po' di parte, però ecco, come Labrador è pazientissima, sempre voglia di giocare, veramente ti rende la vita molto migliore, sicuramente. Grandioso. Sai, io ho lavorato qualche volta con dei non vedenti che hanno il loro cane, no? Il loro cane guida. E a volte mi hanno chiesto anche di fare una sorta di rieducazione, no? Tipo qualche volta, non so, entrano gli ospiti in casa, magari fa un po' di feste, così. Oppure mi hanno chiesto come posso aiutarlo a far stare meglio, perché poi c'è questa grande sensibilità da parte di chi probabilmente, avendo un cane guida, è così riconoscente, no? Quindi mi dicono, mi dici qualcosa, come posso giocare? Io mi ricordo, sì, una ragazza che aveva il cane per non vedente mi diceva, io vorrei giocare meglio di più con lui, allora mi aiuti a capire come fare? Io non avevo idea, perché ovviamente, perché era la prima volta per me, no, che intervenivo in questo campo qui. E quindi ovviamente abbiamo cercato delle cose, no, qualche ricerca fatta in casa, la pallina, quindi insomma queste cose qui, con delle modalità particolari necessariamente. Mi sono accorto però di una cosa, che a volte il cane la guardava in faccia e lei non se ne accorgeva in quel momento, no? Quindi il cane si aspettava, sai, che lei facesse qualcosa. Allora la mia richiesta è questa, di aumentare la sensibilità. Cioè, per esempio, quando una persona mi dice, sai, io sono non vedente, però ho mio marito, io sono più tranquillo, perché dico, ok, così il cane ha qualcun altro col quale avere questo approccio. Però effettivamente è una cosa della quale ho notato che i miei clienti erano contenti che io glielo dicessi, perché si rendevano conto delle difficoltà che poteva avere il cane qualche volta. Quindi quando lei ce l'aveva ai piedi, a volte sentiva maggiormente un movimento, lei sospettava che il cane la stesse guardando, allora sorrideva e gli dava una carezza. E questo ha aumentato meglio il loro legame. Sono stato molto contento. Bene. Questo ne approfitto, no, per dirlo, perché insomma siamo debitori nei confronti dei cani tutti. Senti Giuliano, intanto grazie della chiacchiera con noi, abbiamo dato una notizia in più anche a chi si dovesse trovare di fronte a delle persone che ignorano che la legge gli impone di prendere ovviamente non vedenti sui taxi, sui mezzi, dentro i ristoranti e negli alberghi. E magari ci vediamo ai corsi di Angelo, che ci hai chiesto se... Ah, siete i benvenutissimi. Ah, volentieri. Va bene? Va benissimo. Ci sentiamo. D'accordo. È stato un piacere. Grazie, anche piacere nostro. Ciao Giuliano, Giuliano grazie. Fratelli. Saluto a voi. Grazie. Ciao. Allora, volevo ricordare appunto, se ci volete scrivere, la nostra mail è chiedimi se sono felice, @radio24.it. Io poi sono stata colpita da questo articolo fantastico, che c'è stata la processione che si è tenuta nella cattedrale di St. John the Divine a New York per celebrare San Francesco. Gli animali tanto amati dal santo sono stati benedetti. Qui c'è una foto dove c'è una processione in questa cattedrale enorme di New York, con tutti, non so se sono privati, se sono gente comune o preti, con tutti gli animali in braccio che ricevevano la benedizione. Io sono felicissima di avere una chiesa, la chiesa di San Simpliciano, dove c'è, sì, Don Giuseppe, che ci concede di entrare a seguire la messa con i cani educatissimi, come portare un bambino, ecco, che urla, questo è fondamentale, piuttosto che esca. No, perché vorrei dire una cosa, io sono contentissimo se i cani entrano in chiesa, per carità, capisco anche però chi dice questo è un momento sacro religioso, è meglio che i cani siano fuori, perché loro non capiscono che cosa ci stai facendo, certo. A volte si sentono a disagio e per questo abbaiano, quindi stiamo facendo in realtà un torto a quel cane che sta abbaiando in quel stiamo momento, stiamo facendo un torto al cane e stiamo facendo un torto anche alle persone, perché devono ovviamente essere concentrate a seguire la funzione. Ma questo vale come quando vengono coi neonati che urlano e continuano a cullarli dentro la messa e dovrebbero. Ti ricordi che qualche settimana fa a Pomaia abbiamo fatto la stessa cosa? Sì. A Pomaia io ho tenuto una conferenza, no, dal titolo Pomaia, la via è il centro buddista del Dalai Lama che c'è in Italia. È l'istituto Lama Tsong Kapa, no, che è una delle sedi europee del Dalai Lama, è un bellissimo centro dove vi invito ad andare, perché troverete veramente un'accoglienza e un'atmosfera magica. E anche lì abbiamo fatto benedire gli animali. Sì, esatto, lì dopo la conferenza i monaci hanno fatto una cerimonia in cui all'aperto, attorno alla statua del Buddha dagli occhi amorevoli, che si chiama Chenrezig, hanno benedetto gli animali. E quindi, insomma, abbiamo avuto è stato un bellissimo momento. Una giornata meravigliosa, sì, infatti. E anche per oggi purtroppo il tempo vola ed è finito, caro mio. Beh, mi dispiace, in questo momento non sono felice, però vi aspettiamo alla prossima puntata di Chiedimi se sono felice, come sempre, ogni domenica alle 12 con Angelo Vaira e Rosita Celentano. Ciao a tutti! Ciao!